Ciao Lara, io mi chiamo Armando. Non ti sto a dire che lavoro faccio, quanti anni ho, se sono bello brutto, ricco o povero, perché ho un'altra cosa da dirti, che secondo me è molto più importante. Io mi chiamo Armando Comi. È proprio qua il mio segreto. Il segreto della mia candidatura per diventare un tuo pretendente è il mio cognome. Credo che noi dobbiamo incontrarci per rimettere insieme questo grande nucleo familiare che è rappresentato dai Comi. Per cui, se tu sei interessato a questa cosa, contattami immediatamente, perché vedrai che la nostra famiglia tornerà ad essere una grande famiglia. Credo che ci sia un nucleo sul quale fondare tutto ciò, e questo nucleo è il nostro grandissimo cognome. Ciao.